fede in questi ali senza vita. Vorrei stringere il cielo, sentirlo tra le mie dita. Se di questi sogni resta il freddo in una stanza, so che questo cielo toglie l'ali e la speranza. Fra la verità soffoca luce sulle strade. Se il peso di certa merda segna le mani di un padre che sogna il contante e segue stelle da un palazzo. Se è vero che questa vita non mi ha mai dato un cazzo. Fra la fissa andarsene, incastri lacrime e rima. Ora tua madre piange sola e non ti stringe come prima. Se rinchiudo sogni tra le abissi dei miei mari. Siamo soli in questo mondo fra angeli prividiali, man. La brutta vita paga il prezzo della fame. Se cadranno lacrime tra petali di rame, ne recide pagine, suoni, brividi, ascolto. Tu spegni le stelle se il mio cielo non ha volto. Se dalle ali questo pensiero, fredde mani sopra il mio cielo. Rinnega il volto in questo tramonto, fredda l'alba sopra il mio volto. Soffoca luce sul mio respiro, stringimi forte, stammi vicino. Strappa il vento e spoglia la mia anima, resti danzante in una lacrima. Ehi, riguardo indietro uomo, credimi, vorrei luce tra queste pagine, matrimonio dei miei. Chi spezza le ali sotto il peso dell'asfalto. Ci siamo persi in questa merda, ma per volare alto. Vorrei avere fede, ancora un cuore sincero. So che la vita spezza le braccia, ma più dell'ero. Se cadranno lacrime su questa lì di vetro, ho dato l'anima alle strade, ma senza riaverla indietro. Se dietro ogni lacrima si nasconde uno sbaglio, ho salutato questo cielo, stretto i sogni in un bagaglio. Man, smarisco l'anima tra i miei pensieri spogli. Se il freddo di questi cieli strappa la voce dei fogli, fra troppi finti eroi nascosti tra le maschere. Se qui certa merda ti segna prima di nascere, man. Se ciò che scrivo strappa il sole dagli antartieri, fra la mia grammatica sfiora il volto dei martiri. Padre, resta mio affranco tra questi mondi smarriti. Vedo angeli al suolo sul mio palmo e meteoriti. Scrivo dentro il mio freddo naufrago in questo universo. A volte riguardo indietro e penso a tutto ciò che ho perso. Che ho perso. Che eravamo in un bar, quando ci siamo stretti la mano. E adesso siamo in uno studio a recare insieme. Overfighters. Se dalle ali questo pensiero, fredde mani sopra il mio cielo. Rinnega il volto in questo tramonto, fredda l'alba sopra il mio volto. Soffoca luce sul mio respiro, stringimi forte, stammi vicino. Strappa il vento e spoglia la mia anima, resti danzante in una lacrima. Se dalle ali questo pensiero, fredde mani sopra il mio cielo. Rinnega il volto in questo tramonto, fredda l'alba sopra il mio volto. Soffoca luce sul mio respiro, stringimi forte, stammi vicino. Strappa il vento e spoglia la mia anima, resti danzante in una lacrima.